nazionale. Till time move to Pimnale. But ami uri uri tauri pitschiri na bashir. But ami uri uri tauri pitschiri na bashir. Alanale el hartzion. Zu time of to Pimnale. But ami uri uri tauri pischiri na bashir. But ami uri uri tauri pischiri na bashir. Tavo.